peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo alcune novità, come di consueto poi succede in questa trasmissione, novità uscite negli ultimi tempi da parte di musicisti interessanti o comunque di alto livello. Il primo lavoro è interessante per un aspetto curioso, si tratta di Dave Liebman, ormai un vecchio leone, musicista, sassofonista, soprano, soprattutto oltre che tenore, che come dire, si affaccia alla notorietà nel gruppo di Miles Davis alla fine anni 60, inizio anni 70, anzi direi inizio anni 70. Da lì comincerà una lunga carriera nel quartetto di Elvin Jones per parecchio tempo, poi iniziando collaborazioni con molti musicisti e peraltro conducendo anche progetti a proprio nome, vari gruppi a proprio nome, anche un'attività piuttosto sostenuta, un'attività didattica. È ormai un musicista che si affaccia verso i 70 anni, ha fatto parte a pieno titolo di questa generazione di personaggi che hanno, come dire, tessuto il rapporto tra la tradizione e quello che era una certa avanguardia. Per esempio, una curiosità, è stato un allievo anche lui, come molti altri, di Lenny Tristano, questo uno degli ultimi allievi di Tristano, e poi ha lavorato veramente in contesti molto diversi. E recentemente, ormai è già diversi anni, che si è rinnovato e si è riproposto, diciamo, all'attenzione del pubblico con progetti interessanti, più legati sia per le collaborazioni, specialmente per le collaborazioni, legati a un certo linguaggio nuovo, più vicino all'avanguardia. All'avanguardia, ma un'avanguardia molto formalmente compiuta, insomma. Nel 2012, questo è un disco che esce quest'anno, nel 2013, comunque è stato registrato l'anno scorso, ha condotto due gruppi e sono usciti due lavori, diciamo, di un certo livello di Liebman. Il primo con un quartetto che abbiamo già riproposto in altre occasioni, che è ormai da un certo tempo, insieme a Larry Eskelin, che da un certo tempo sta proponendo, è venuta anche peraltro in Emilia a suonare, a proporre la sua musica. E questo è un altro progetto, dovuto a un altro musicista, un personaggio interessante. Si tratta di Lewis Porter, è stato lui che ha condotto questo progetto e voluto questa formazione, questo incontro. Lewis Porter è un pianista, ma soprattutto è conosciuto come musicologo e peraltro, lo ricordo, autore di una delle migliori, a mio avviso forse la migliore, biografia ragionata, biografia critica e analisi critica del lavoro di John Coltrane, uscito peraltro anche in Italia qualche tempo fa, ma è anche un pianista di un certo livello, un didatta, come dire, un uomo di cultura, che ha ricercato, suggerendo questo progetto, ha ricercato un linguaggio che riesca ad accomunare e avvicinare le vecchie generazioni, diciamo, con le nuove, e riesca a tessere anche una sorta di percorso di filo conduttore nella storia degli ultimi 40 anni, della quale peraltro anche Liebman è stato uno dei protagonisti. La formazione è molto interessante perché è anche oltretutto la prima occasione che Liebman ha di incontrare questi musicisti, Oltre a Lewis Porter al pianoforte, ascoltiamo Mark Ribot alla chitarra, e Brad Jones al contrabbasso e Chad Taylor alla batteria. Quindi una formazione come dire, che è composta anche di musicisti che sono molto attuali sulla scena musicale, specialmente penso a Chad Taylor. Ma Chad Taylor collabora con Mark Ribot anche in una nuova formazione più rock. Quindi sono musicisti che provengono dall'area newyorkese e con un loro carattere. È interessante che questa esperienza riesca a coniugare quello che può essere una suggestione devisiana come il brano iniziale, che è una composizione dello stesso Lewis Porter, che è dedicata a Olivier Messiaen, che però è decisamente influenzata dall'area, diciamo, devisiana dell'inizio anni 70. E il brano successivo è molto diverso come linguaggio, è un brano, una composizione di Ornette Coleman, che viene eseguita, una composizione di Ornette Coleman e Pat Metheny, fu il frutto di uno dell'incontro, diciamo, testimoniato anche discograficamente tra Ornette Coleman e Pat Metheny. È interessante vedere anche il linguaggio di Mark Ribot, come si muove tra le atmosfere devisiane che ricordano McLaughlin e quelle invece più specifiche del linguaggio colemaniano. Ascoltiamo questi due brani. Thank you. Questo era Dave Liebman con il suo gruppo che in collaborazione con Lewis Porter al pianoforte ha dato vita a questo progetto Surreality, un disco uscito recentemente per l'etichetta Angel. La formazione era composta, oltre che Liebman e Porter, da Mark Ribot alla chitarra, tra l'altro veramente notevolissimo come sempre, peraltro Brad Jones al contrabbasso e Chad Taylor, bravissimo, alla batteria. E un altro delle novità delle ultime settimane è l'ultimo lavoro da parte di un gruppo che è già molti anni che lavora e si propone, un progetto, diciamo, uno dei tanti peraltro, condotto da Steve Bernstein. Il progetto è quello dei Sex Mob, una formazione che è composta da, oltre che da Steve Bernstein alla slide trumpet, quindi alla tromba, e le varie declinazioni della tromba, da Brigham Krause al sax contralto e anche al baritono in alcuni casi, Tony Scher al basso elettrico e Kenny Wollesen alle percussioni. Una formazione che ormai ha quasi una quindicina d'anni al suo attivo e che negli ultimi anni non ha prodotto molti lavori, poteva anche essere ormai considerato un'esperienza conclusa, ma poi con quest'ultimo lavoro si rivela essere ancora intenzionata a proporre nuovi progetti, nuovi temi per questa formazione. I Sex Mob hanno, a parte che hanno una grande capacità di impatto nei concerti dal vivo, e hanno sempre privilegiato la rilettura o la reinterpretazione di temi legati al cinema. Sono frequenti, per esempio, il lavoro dedicato alle musiche di 007, e quindi poi altre dedicate anche a Ennio Morricone. Ecco, nell'ultimo lavoro è una serie di brani dedicati e composti, peraltro, dedicati a Nino Rota. Quindi naturalmente il filo conduttore è quello di Fellini, infatti diciamo che Rota interpreta Fellini, questo è uno dei sottotitoli di questo lavoro intitolato Cinema, Circus and Spaghetti, Dio solo sa gli spaghetti a qual titolo vengono posti nelle musiche di Nino Rota, però tutto va bene, e anche il risultato di questo lavoro, sono 12 composizioni, è soddisfacente. Riesce a mantenere questa ironia, questo gioco e questa capacità anche di orchestrazione, di arrangiamento delle musiche di Rota in maniera intelligente, dando anche una vitalità rinnovata a questi conosciuti e bellissimi brani. E ascoltiamo due momenti, entrambi presi dalle musiche di Amarcord. Il primo, che è anche il brano di apertura, è appunto intitolato Amarcord, e poi anche l'episodio di Volpina, uno dei personaggi indimenticabili appunto di Fellini. Questa era la musica di Nino Rota, da Fellini, interpretate dai Sex Mob di Steve Bernstein, con Brigham Krause, Tony Scher e Kenny Wollesen, quindi un quartetto ormai consolidato, e che va a rileggere in modo giocoso queste pagine della storia di Nino Rota. Un disco uscito di recente, autoprodotto da quanto sono riuscito a comprendere, comunque intitolato Cinema Circus and Spaghetti. L'ultimo lavoro che ascolteremo oggi è di un musicista che ormai molti anni, diversi anni insomma, perlomeno, che è uno dei sidemen più richiesti nelle varie formazioni. Si tratta di un contrabbassista, Drew Grass, e che appunto già dagli anni 90 si propone come uno dei contrabbassi più affidabili. Non ha prodotto pochissime cose a proprio nome come leader, quindi sempre però le prove precedenti sono sempre state intanto nutrite dalla collaborazione di musicisti di primo ordine, e poi sempre di un livello notevole, come peraltro anche in quest'ultimo caso. Si tratta di un disco, appunto, di un quintetto dove oltre al contrabbasso e al basso elettrico di Drew Grass ascoltiamo la tromba di Ralph Alessi, Tim Bern al contralto, Craig Taborn al pianoforte, Tom Rainey alla batteria. Quindi una formazione di all star che sono però tutti in qualche modo collegati alla carriera, alla vita di Drew Grass. Molti di questi hanno collaborato con Drew Grass, oppure Drew Grass ha collaborato con loro in varie occasioni, in vari contesti. Penso per esempio a una lunga collaborazione con Tim Bern e con Tom Rainey. Il risultato artistico di questo disco intitolato The Sky Inside, un disco uscito per la Piroquet Records, un'etichetta, devo dire, che è la prima volta che la sento nominare, è risultato decisamente apprezzabile. Ascoltiamo il brano di apertura intitolato No Saints. Thank you. Questo era il brano di apertura, una composizione di Drew Grass, appunto il quintetto di Drew Grass, e tutti peraltro, tutti i brani che compongono questo disco sono composti, sono scritti dal contrabbassista, da Drew Grass. La struttura, il senso, la modalità espressiva che della quale si appropria Drew Grass fa parte proprio della sua tradizione. Questo qui è un percorso che tiene conto dell'esperienza Free, ma in un senso di forma molto compiuto, molto solido, un senso della struttura molto, molto forte. E naturalmente è chiaro che i musicisti sono di altissimo livello e quindi lo sostengono in questo lavoro, dando un valore aggiunto a tutte le composizioni, un valore aggiunto che non può essere certamente non rilevato. Tutti sono straordinari, peraltro anche sia Tim Bern che Craig Taborn, che sono frequentemente risentono molto dei contesti quando suonano con altre formazioni, diciamo quando suonano come sidemen in altri gruppi, vengono anche spesso condizionati da quelle che possono essere le intenzioni musicali del leader. In questo caso si muovono al proprio agio ed esprimono direi compiutamente se stessi. Anche il pianoforte di Taborn è un punto di struttura fortissimo, un sostegno fortissimo al contrabbasso del Grass, e Tim Bern è come al solito grande nelle sue capacità espressive al contralto. Ascoltiamo un altro brano, che è anche l'ultimo per oggi, intitolato Long Story. Thank you. In questo caso Drew Grace risente di una sorta di influenza anche della tradizione cool. C'è nel tema iniziale un intreccio nei fiati che appunto con una sorta di tempo fugato dà un senso della struttura molto solido, ma non è infrequente che i contrabbassisti propongano delle composizioni estremamente solide nella loro struttura musicale. Lo strumento sicuramente richiede un senso della forma e della quadratura che non può non influenzare anche la composizione. E questo era l'ultimo brano, ricordo, il gruppo, il quintetto di Drew Grace, il contrabbassista Drew Grace, con Ralph Alessi alla tromba, Tim Bern al contralto, Craig Taborn al pianoforte e Tom Rainey alla batteria. Disco intitolato The Sky Inside, uscito recentemente. Vi ricordo che la trasmissione e anche tutte le informazioni discografiche le potete trovare sul nostro sito radiocittafugico.it, nella sezione musica potete anche riascoltare la trasmissione in podcast. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.